perché in questo momento, è particolare per la radio e perché abbiamo lanciato questa campagna di abbonamento? Così, come idea di sostegno, di finanziamento stabile alla radio. Il momento è particolare perché probabilmente, come saprete, con la nuova finanziaria verranno tagliati i fondi per l'editoria e quindi Radio Onda Rossa si troverà, non che fossero questi questo grande aiuto, in ulteriore difficoltà. In ulteriore difficoltà. Allora, diciamo che Radio Onda Rossa per campare ha bisogno di 30.000 euro l'anno. Euro più, euro meno. Euro più, euro meno. La stima nostra è questa. E l'abbiamo anche pubblicato, se andate sul sito ondarossa.info e cliccate sui particolari dell'abbonamento, ci ha anche spiegato quali sono le spese della radio. Io ve le volevo leggere adesso per dare un'idea di quanto si spende. 8.000 euro l'anno, 8.000 per l'elettricità e l'impianto trasmissivo di Montecavo, dove c'è il trasmettitore. Peraltro spese che siamo riusciti a contenere proprio con il nuovo trasmettitore che, esatto, ci avete sempre sottoscritto in qualche maniera con la bella campagna di finanziamento di 6-7 mesi fa. Perché il trasmettitore è nuovo e consuma di meno e quindi paghiamo di meno. E inquina pure di meno. E inquina pure di meno. Questi 8.000 per Montecavo, 4.000 per la manutenzione ordinaria degli impianti di trasmissione, sempre a Montecavo, 4.000 euro di telefonie e bollette. Posso fare un inciso ancora? Guardate, incidi. Il trasmettitore di Montecavo, come tutti i trasmettitori delle radio, non è che funzionano da soli, basta attaccare la corrente. Ci stanno una serie di interventi tecnici che sono inderogabili, che vanno fatti periodicamente. Che significa che ci stanno temporali, si stacca la corrente. È appena successo, però. È appena successo e quindi sono cose quotidiane. E quindi abbiamo questo tipo di spese, tanto per entrare un po' più nel dettaglio. 4.000 di telefonie e bollette, dicevamo, 8.000 di tasse e imposte varie, 4.000 di sostituzione, guasti, eccetera, 2.000 euro varie ed eventuali. Zero, c'è anche una nota zero sulle uscite ai redattori e alle redattrici della radio che non ricevono un centesimo per contribuire a animare Radio Onda Rossa. Certo, animare, perché la radio, come sapete, si fa per la maggior parte qui. Questa è una radio, quindi ci stanno dei redattori che parlano, mettono musica, studiano, perché appunto poi bisogna fare anche un'opera di, prima di tutto, di informazione verso noi stessi, studiare le materie. Nessuno di noi è un professionista, quindi è del tempo che dedichiamo, che non è solamente quello che si passa negli studi, l'ora della trasmissione. E più, siccome lo dicevamo proprio con voi poc'anzi, a noi non piace non conoscere chi è in qualche maniera che fa vivere Radio Onda Rossa. Significa anche avere un rapporto di relazione con tutte e tutti voi, significa fare iniziative e cercare di incontrarvi il più possibile e capire quello che la radio deve dire, in realtà qual è il suo ruolo, il suo compito. E proprio per questo sono importanti i concerti che organizziamo. Io mo te do la palla per parlare anche al volo. Allora, di questo, diciamo, forse Elettrodo era il più quotato, non so se il Fantasma ne avrà parlato sicuramente, tanto più che come al solito. Comunque, vabbè, già da un paio d'annetti, credo, giù di lì vanno avanti queste iniziative al Forte Prenestino, e ringraziamo i compagni del Forte che sono sempre stati disponibili e vicini alla radio nel organizzare insieme alla radio, nel permettere alla radio di far vivere questo tipo di iniziative. A un certo punto è uscito anche un nome. C'è il nome, certo, ed è bellissimo. La cospirazione della Rosa Nera. Sì, che ha visto, almeno che io mi ricordi, una decina di iniziative. Non l'abbiamo mai contate. Non l'abbiamo contate, vero? Comunque, insomma, diverse iniziative al Forte Prenestino. Che suonerà venerdì prossimo? Gli Artica e la Grazia Obliqua. La Grazia Obliqua. Gli Artica fanno un gothic che stavamo ascoltando prima, piuttosto potente e interessante. La Grazia Obliqua nascono dal punk e poi diventano anche loro, qua questo è il fantasma, è più preciso nelle non definizioni tanto, non tanto. Questo va bene. E tutto quanto appunto abbiamo detto a Forte Prenestino, via Federico Rappino a Centocelle. Li intervisteremo venerdì prima del concerto. Benissimo. Alle 21 e spicci. A seguire ci sta il DJ set, che è l'altro pezzo forte, tra l'altro un DJ set che ha preso spessore in questi anni, anzi quest'anno devo dire abbiamo iniziato anche un po' tardi, perché avevamo iniziato a febbraio, di solito si iniziava già a novembre e si facevano un paio di, però appunto un po' la campagna che stavamo organizzando, un po' tanti impicci vari e appunto non si riesce sempre ad arrivare per tempo. Comunque ci saranno tre DJ della radio, che sono Elettro, Nottibus Panis e Mitta Kaisen, che normalmente vanno fino a notte inoltrata, insomma al forte si può, sì. Al sabato mattina. Va bene. Sì, non diamo false speranze, fino alle 3. A una certa. Fate giornata. No, a una certa sì, esatto. A una certa non ce ne andiamo, poi fate quel che volete. Va bene. Allora, non so se abbiamo altro da aggiungere rispetto a... No, vabbè, che stiamo organizzando tante cose, che ci stanno tante cose in pentola, ma non vi diciamo nulla, ovviamente, ce lo teniamo per noi, e perché ci piace pure spirucchiare. Sì. Piano piano. Però grosse sorprese in serbo per voi. Grosse sorprese in serbo, perché questa radio non solo stiamo cercando di rilanciarla da tutti i punti di vista, anche in virtù dell'entusiasmo che ci avete dato appunto con la campagna per il trasmettitore, e già con questa campagna che mi sembra stia dando già dei frutti. Vuoi sapere a quanto stiamo? Ma ci stanno adesioni a partire. Ci sta, l'ho aperto adesso, sono rimasto sorpreso, perché un giorno soltanto dal lancio sono 23 persone che hanno aderito. Dai, e siamo a 685 euro. Fatevi sotto che noi diamo nel nostro, tra l'altro, tra le altre cose, la 10.000 una volta, insomma, però quella mettevamo. La 20 euro. Stai parlando del vecchio conio. Del vecchio conio, sì. sì. E noi ce la mettiamo tutta, dateci una mano ancora, se volete, perché volete, lo sappiamo, che Radio Onda Rossa continui a trasmettere da qui a quando. Radio Onda Rossa sempre, è come il punk, sì, non muore mai. Va bene. Sì, poi ci siamo ricordati della cosa forse più importante, cioè abbiamo lanciato la campagna, così, però in che consiste? Cioè, come fate a sostenere? Come si fa? Allora, facilissimo, si raggiunge il sito della radio al www.ondarossa.info. C'è in bella mostra il nuovo banner appunto dedicato alla campagna di autoabbonamento, si clicca sul banner e si viene indirizzati alla pagina insomma dedicata appunto al radio abbonamento. Quindi cliccando si viene indirizzato. Lo sta facendo in diretta, capito? C'è la prova. E quindi si viene indirizzati al sito di Produzioni dal Basso, dove attiva la campagna appunto per il radioabbonamento. Per dirla proprio in altre cifre, chiediamo, perché questa poi la cifra, 2,5 euro al mese. Questo è poi, quindi un'inezia, un par di caffè, anche di quelli diciamo scarsi, perché se vai al baretto quello, no, che capita, anche viene di più dei due caffè, due caffè costano più di 2,50 al mese, quindi dai, insomma, è uno quindi sforzo. Offrite meno caffè in giro, vabbè, però insomma, per una buona e giusta causa. Oppure offrite un caffè in più e nel frattempo ascoltate Radio Onda Rossa.